bene di tutti. Parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Una società che vuole intenzionalmente rimanere al servizio dell'essere umano è quella che si propone come meta prioritaria il bene comune, in quanto bene di tutti gli uomini e di tutto l'uomo. Vogliamo, carissimi ascoltatori, ripartire proprio da queste parole del compendio della dottrina sociale della Chiesa per riprendere il nostro cammino con il bene di tutti, parliamone. E lo faremo, in queste nostre prime puntate, proprio dal centro, dall'elemento cardine su cui tutta la dottrina sociale della Chiesa, ovvero gli insegnamenti del Vangelo applicati alla società, alla politica, all'economia, si basa: la persona, l'essere umano. La dottrina è sociale, ma non ci può essere socialità, non può esistere società, se prima non partiamo dalla persona, con i suoi doveri, i suoi diritti, le sue aspirazioni e i suoi sogni. E dall'idea che abbiamo del singolo essere umano dipende la nostra idea di società. Possiamo considerare la persona come Hobbes, Homo homini lupus, cioè una belva che va tenuta a freno prima che divori i suoi simili, oppure, come fanno certe teorie iperliberiste, possiamo considerare le persone come totalmente buone, anzi schiacciate da una società che le incatena e ne limita il potenziale. Ma torniamo a noi. Per la dottrina sociale della Chiesa, chi è l'uomo? Cos'è la persona umana? Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Tutta la vita sociale è espressione della sua inconfondibile protagonista, la persona umana. Lungi dall'essere l'oggetto e un elemento passivo della vita sociale, l'uomo ne è invece e deve esserne e rimanerne il soggetto, il fondamento e il fine. Da lui pertanto ha origine la vita sociale, la quale non può rinunciare a riconoscerlo suo soggetto attivo e responsabile, e a lui ogni modalità espressiva della società deve essere finalizzata. L'uomo, colto nella sua concretezza storica, rappresenta il cuore e l'anima dell'insegnamento sociale cattolico. Tutta la dottrina sociale si svolge infatti a partire dal principio che afferma l'intangibile dignità della persona umana. Mediante le molteplici espressioni di questa consapevolezza, la Chiesa ha inteso anzitutto tutelare la dignità umana di fronte ad ogni tentativo di riproporne immagini riduttive e distorte. Essa ne ha inoltre più volte denunciato le molte violazioni. La storia attesta che dalla trama delle relazioni sociali emergono alcune tra le più ampie possibilità di elevazione dell'uomo, ma vi si annidano anche i più esecrabili misconoscimenti della sua dignità. È con noi, cari ascoltatori, e lo sarà anche nelle prossime due puntate, Don Marco Cagol, responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi. Grazie a voi e ben ritrovati a tutti. Andiamo al dunque, Don Marco. Per la dottrina sociale della Chiesa, cos'è l'uomo? Ma il brano che abbiamo ascoltato già ci dà alcune definizioni. Ci ha detto che la persona, l'uomo, è il soggetto, il fondamento, il fine di tutta la vita sociale. Però la dottrina sociale ci offre anche proprio alcuni tratti, alcune pennellate molto precise che derivano proprio dalla Sacra Scrittura, quindi dalla fede cristiana. La prima è che l'uomo è considerato come immagine di Dio, creatura creato ad immagine di Dio, ad immagine e somiglianza di Dio, e questo evidentemente conferisce alla persona umana una dignità tutta particolare all'interno così della realtà creata. E dopo, un'altra caratteristica fondamentale è che la persona umana è pensata, è voluta, è creata da Dio immediatamente come un essere in relazione con Dio, in relazione con gli altri, in relazione con il cosmo e anche in relazione con se stessa, cioè è un essere che è capace di riflettere su se stesso. E un altro aspetto che emerge dal pensiero sociale cristiano, un aspetto un po' particolare ma che è una chiave decisiva per capire anche tanti risvolti della dottrina sociale della Chiesa, cioè che la persona umana noi la conosciamo come ferita dal peccato originale, dalla caduta narrata nella Bibbia, ma comunque ecco esplicitata in tutto anche il Nuovo Testamento. E questo ci dice un elemento molto particolare: la persona umana è segnata anche da una ferita. Alcuni aspetti della sua persona, diciamo così, si rivolgono contro Dio, si rivolgono contro se stessa. Però, ecco, la visione cristiana non è una visione pessimistica, è una visione ottimistica, perché questa caduta non è originaria, è qualcosa che sopravviene e però della quale l'uomo può liberarsi grazie all'opera di Cristo, grazie all'opera di Gesù Cristo, alla redenzione. E questo fa sì che anche nella vita sociale si possa pensare che l'uomo non è condannato ai suoi limiti, alle sue miserie, alle sue povertà o alle sue fatiche, è sempre redimibile. Questo è un aspetto molto molto importante. E poi il compendio enuclea una serie di caratteristiche della persona umana, dice che ha molti profili, li elenco semplicemente, non abbiamo il tempo di approfondirli uno per uno. La persona è unitaria, la persona è aperta alla trascendenza, la libertà, ecco una caratteristica fondamentale, l'uguaglianza in dignità e la socialità. L'uomo, la persona umana, è un essere nativamente sociale. Sì, prima abbiamo citato gli estremi delle teorie sull'uomo, abbiamo citato da una parte Hobbes e l'homo homini lupus e dall'altra le teorie ultraliberiste che ritengono lo Stato una gabbia per la libertà dell'individuo che, se lasciato libero, può solo fare il bene. La Chiesa rifiuta entrambe le teorie, perché e di cosa, e cosa rifiuta di queste teorie? Ma direi che il punto nodale è proprio sulla tipologia di relazione che le persone, diciamo così, instaurano. Ecco, la visione così di Hobbes ha una visione totalmente negativa delle relazioni tra gli uomini, cioè relazioni che sono strutturalmente conflittuali, nativamente conflittuali, e questa conflittualità può essere in qualche modo limitata solamente da un potere che sovrasta gli uomini, non può essere in qualche modo arginata dall'interno degli uomini. Quindi questa relazionalità negativa viene rifiutata nella visione cristiana. E il secondo aspetto che viene sostanzialmente rifiutato è l'idea dell'assenza invece di relazioni, cioè l'individualismo, diciamo così, totalmente per cui l'uomo è totalmente privo e può pensarsi a prescindere dalle relazioni nelle quali è inserito. Questo proprio è una constatazione anche molto molto esperienziale, se ci pensiamo bene. L'uomo nasce grazie a una relazione tra l'uomo e la donna, l'uomo non può vivere se non, anche nei primi anni di vita, pensiamo a un bambino, se non è in relazione con qualcuno che se ne prende cura. E di fatto anche la psicologia, ma anche altre scienze umane, ci fanno intendere, ci fanno capire che senza una relazione positiva con gli altri l'essere umano, diciamo così, muore interiormente. Ci fermiamo qualche istante e torniamo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Che cos'è l'amore? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai, permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. stringere per finta un'estranea cavaliera, e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? E la Ramona che entra in campo è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susi. Ah, e permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Siamo di nuovo qui con Don Marco Cagol, stavamo parlando del ruolo della persona, della visione della persona nella dottrina sociale della Chiesa. Ecco Don Marco, con questa visione di persona che la dottrina sociale ci propone, cosa cambia di riflesso anche per la nostra idea di società? Ma alcune cose si intuivano anche dalle risposte precedenti. Beh, anzitutto una cosa importantissima che nella tutta la dottrina sociale della Chiesa traspare proprio in riferimento a questa visione della persona, è che la società non è qualcosa di cui l'uomo, da cui l'uomo debba difendersi. La società è il luogo, diciamo così, naturale, ovvio, anche dello sviluppo della vita della persona. Evidentemente ci sono delle società originarie, primarie, per la realtà, la realizzazione della persona, che sono per esempio la famiglia, che sono per esempio con la comunità anche locale, che sono anche la comunità religiosa, e poi ci sono delle società che invece sono più strutturate e che però servono, cioè non sono delle sovrastrutture inutili o minacciose per la persona umana, ma sono diciamo così quei livelli di società e di relazioni che servono all'uomo per soddisfare anche i propri bisogni, per dare risposta a quei bisogni che individualmente o all'interno della famiglia non è possibile soddisfare. Ecco, la comunità politica da questo punto di vista qui è proprio, diciamo così, quella che sta più in alto e che però ha una sua positività radicale all'interno della visione della dottrina sociale della Chiesa. Quindi non è un di più e non è un qualcosa che si pone come minaccioso nei confronti della realtà umana. E questo, ecco, ma lo si vedrà poi molto bene anche nella enciclica Caritas in Veritate, lo si spiega anche molto bene pensando all'idea di unità della famiglia umana. Cioè nella dottrina sociale della Chiesa è molto importante questo aspetto. L'umanità presa nel suo insieme è un qualcosa di positivo, è un qualcosa di, potremmo dire così, di naturale all'interno della quale si sviluppa la vita umana. Dio ha uno sguardo complessivo sull'uomo all'interno della grande e della universale famiglia umana. Ma probabilmente questo ci ritorneremo se avremo occasione di parlare anche della Caritas in Veritate. Quindi per lo Stato, e non solo lo Stato, ma per la dottrina sociale della Chiesa, l'uomo è immerso in una serie di relazioni, e quindi lo Stato non è quella guardia armata che punisce, ma quella guardia giurata, insomma, che protegge. Sì, diciamo che il principio fondamentale rispetto a questa tematica è quello di sussidiarietà, ma forse, ecco, lo vedremo magari in un'altra occasione. Cioè queste società, tra virgolette, più complesse, più ampie, servono proprio per sostenere lo sviluppo della persona all'interno delle sue formazioni originarie, quindi la famiglia e le piccole comunità, ma non sono mai da vedere come una minaccia, ecco, questo è importante. Un altro aspetto è che deriva un po' da questa visione è che la persona umana non è un ingranaggio della società, come se dal punto di vista proprio logico venisse prima il corpo sociale e poi dopo dentro si possano vederne gli ingranaggi, e gli ingranaggi sarebbero costituiti dalle singole persone, che debbono dunque essere anche sacrificate alla vita stessa della società, in quanto appunto primaria, originaria rispetto alla persona. Ci sono state delle teorie anche nel passato che hanno inteso così. Quindi la persona andava sacrificata nella sua individualità, nella sua unicità, ecco, nelle sue caratteristiche, nella sua libertà, allo sviluppo della società intesa come organismo che ha dei diritti in quanto tale, ecco, e quindi rispetto ai quali possono essere sacrificati i diritti della persona. Ecco, questa visione organicistica è totalmente rifiutata dalla dottrina sociale della Chiesa fin dall'inizio, fin dalla Rerum Novarum, quando Leone XIII prese di mira la soluzione al problema della questione operaia che veniva nel modo in cui veniva posta dalle teorie di tipo socialista e marxista. Ecco, quindi sicuramente questo è un altro aspetto fondamentale. E si può dire anche allora che la visione di società che deriva da questo modo di intendere la persona ha una caratteristica che è proprio il pluralismo delle formazioni sociali. Ecco, ci stiamo giocando questa conversazione tra i due estremi, quindi la società che schiaccia e la società che non esiste. Andiamo dall'altra parte, andiamo dall'altro estremo. Quali sono le forze che operano all'interno della società che tendono a rafforzare le spinte individualistiche o iperliberiste della persona? Ma diciamo che bisogna andare coi piedi di piombo a rispondere a questa domanda. Sicuramente oggi una delle forze che più spinge nel comprimere alcune delle dimensioni della vita della persona diciamo così, sono le forze di carattere economico. Il mercato, diciamo, inteso nel modo anche spinto del capitalismo, del turbocapitalismo, dell'iperliberismo. Perché? Perché questo tipo di meccanismo tende proprio, o ha bisogno, per, diciamo così, autoalimentarsi, di separare gli individui tra di loro e di considerarli, cioè di metterli in una condizione di isolamento che è più funzionale alle logiche del mercato. A me piace sempre fare questo esempio. Una persona che vive da sola in un suo appartamento, isolata dagli altri, quindi che non consuma di più di una famiglia o di una persona che vive insieme con altre persone, è più, diciamo così, sia per motivi molto pratici, nel senso che comunque deve avere tutte le cose che magari in famiglia ne basterebbe una per 5 persone, ma poi anche credo dal punto di vista proprio psicologico, dal punto di vista interiore, uno che è solo magari è più portato anche a rifugiare, a colmare la sua solitudine attraverso l'acquisto dei beni. Collegato a questo è sicuramente una visione di tipo materialistico. Ecco, tutte le visioni di tipo materialistico sono pericolose da questo punto di vista qui. E infatti una delle questioni fondamentali che la dottrina sociale della Chiesa pone è che la persona va salvaguardata sempre anche nella sua dimensione spirituale e trascendente, perché questo è ciò che rende l'uomo degno di ciò che è, che rende l'uomo ciò che è veramente. Quindi se la società comprime queste dimensioni, evidentemente questa dimensione fondamentale, in tutti i modi in cui può farlo, evidentemente, ecco, limita e danneggia, ecco, la vita stessa della persona. Ringraziamo Don Marco Cagol per essere stato con noi. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla scuola di formazione all'impegno sociale e politico fino al 5 ottobre. Per maggiori informazioni il sito è www.fispadova.it. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Per riascoltarci andate sul sito di Blu Radio Veneto o per mandarci una mail inviateci un messaggio di posta elettronica a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.